Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Legalize it, decriminalize it, man, I'm a Mr. Banton, will advertise it, Sensi Mila. Me send a letter to the residence of the president with a stamp on the front saying very urgent. The message inside went something like legalize it, Sensi Mila. Sensi Mila is a herb that grows naturally, just like any other plant or tree. Natural as the birds, natural as the bees, and just like them, Sensi ought to be free to be grown anywhere that we please, in the city, in the town, and in the country, in the hills and in the valley. Sensi should be there for everyone to see. Me send a... Il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha presentato un disegno di legge per la regolamentazione della cannabis, e in realtà è opportuno aprire un dibattito su questi temi, perché occorre assolutamente sottrarre questo tipo di commercio al racket e alla criminalità, quindi è fondamentale aprire un dibattito su questo. La geniale soluzione della candidata del Movimento 5 Stelle per combattere gli spacciatori, la diffusione della droga al Pigneto, è legalizzare le droghe. Ora sicuramente gli spacciatori ora sanno per chi votare. Sensi should be there for everyone to see. Me send a letter to the residence of the president with a stamp on the front saying very urgent. The message inside went something like legalize it, Sensi Mila. To call Sensi a drug is very absurd. Io non lo so come sia entrata questa questione nella battaglia per le comunali a Roma. Non lo so come sia entrata, però sta di fatto che è entrata anche quella questione che si chiama legalizzazione. E allora oggi iniziamo con questo reggae un po' modernizzato, eh. Che dobbiamo dire? Insomma, non lo so se per festeggiare così a Leicester, non lo so se scorrono fiumi di ganja, non lo so, non lo voglio sapere, ma a Leicester, voi non lo sapete, magari non siete tifosi di calcio, dopo 132 anni di storia, è arrivato un signore, dai, facciamo un po' gli orgogliosi, si chiama Claudio Ranieri, è italiano e ha vinto lo scudetto, la Premiership, insomma, quello che sarebbe lo scudetto in Italia, ha vinto il campionato inglese, una roba storica, che è l'inno del Leicester. Tra l'altro straordinario, in questi giorni si sbizzarriscono i giornalisti andare a chiedere, soprattutto agli italiani, come si pronuncia, perché si scrive Leicester, come si pronuncia esattamente? Leicester. Grande Claudetto, Leicester. In Leicester. Sì, ma roba là. Il Leicester. Leicester. Leicester, roba leggera così. Il Leicester, mi sembra. Leicester. Una squadra inglese. Leicester. Non mi ricordo adesso bene come si pronuncia. Tell me the perfect pronunciation. Leicester City. Oh, è arrivata una britannica doc a Roma. Leicester. Quella roba lì, insomma. Allora, sì, bravo, dai, mi chiedono Milan perché non prendete Ranieri al Milan, va bene. Saluto tutti! Alle 6.33 minuti, questo è 24 mattino, con l'inno del Leicester. Voglio subito chiedere al mio ospite al momento, perché c'è Alessandro Giglioli dell'Espresso che... Lo so, magari ci sei all'ascolto. Devi riavviare il cellulare. Resetta se ti sei svegliato. Resetta il cellulare, che adesso ti chiamiamo. Il mio ospite invece è Antonio Di Pietro. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti quelli che partono per... Dove la sentiamo? Non si sente bene. Dov'è il cellulare? Come non lo sente bene? Adesso si sente bene. Vuol fare una prova di pronuncia di Pietro su Leicester? Già secco l'italiano, ma già secco l'inglese. Non ti prego. Leicester. Claudio. Però guarda, c'è una cosa positiva. Perché io adesso che vedo queste squadre italiane giocare, se devo dire pronunciare i nomi dei giocatori non ci riesco, perché forse in italiano a giocare. Finalmente sì. C'è un italiano... Da quella parte lì, sì, esatto. Claudio Ranieri, questo non ci svegliamo. Claudio Ranieri, campione d'Inghilterra, mi sembra la notizia più importante del giorno. Leicester. Va bene, dai, insieme ad Antonio Di Pietro dobbiamo aprire il Parlamento, apriamo anche adesso il Senato finché c'è. Andiamo a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Piaciuta la battuta di Pietro, apriamo il Senato finché c'è, no, ma rimarrà ancora. Stai tranquillo che ci sarà pure dopo. Ci sarà purtroppo, pure dopo, ecco, sì, che sì. Non cambia niente se non invertendo il gioco delle carte, che da una parte era sempre quello. Vabbè, dai, proprio uguale. Eccolo qua. Presto stamattina. Io voterò no al referendum. Il comitato per il sì sono partiti e Di Pietro subito si schiera per il no. Eccoli qua. Che devo fare? Quello invece sta a governare, penso a fare sì a giocarsi o no. Sì e no. Oggi anche Giorgio Napolitano fa un'intervista in un'intera pagina sul Corriere della Sera e lui... Insomma, che non può parlare. Io lo ritengo il maggior responsabile di questa situazione di crisi, quindi parlando seriamente, perché è un Presidente della Repubblica che quando vede che gli elettori votano una coalizione o l'altra, una delle due coalizioni che prima vince e poi non c'è il numero in Parlamento, non lo rimanda a votare, ma fa il gioco mischia, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di qua, un po' di là, quello non fa il gioco della Costituzione, fa il gioco insomma, dei partiti. C'è rimasto male quando di recente ha detto anche di votare al referendum, di non votare al referendum, però stavolta dà una piccola stoccatina a Renzi, piccolina. Renzi non avrebbe dovuto dare questa accentuazione politica personale al referendum, però dice solo un ipocrita può dire che su questo il governo non rischia, cioè c'è un rischio del governo, però insomma forse ha esagerato Renzi a dire votate me, perché si deve votare una riforma, che piaccia o no, non è che votiamo un referendum su Renzi. Ripeto, io personalmente quando sento un ex Presidente della Repubblica che con riferimento al referendum dice non andate a votare, mentre la Costituzione dice che è un dovere civico il voto, io quel Presidente della Repubblica, se permette, rispetto l'istituzione, ma quel Presidente della Repubblica non l'apprezzo. Ex Presidente della Repubblica, adesso si può dire. Ma anche c'è ancora il vilipendio, magistrato Di Pietro, c'è ancora il rischio di vilipendio di capo dello Stato? A suo tempo mi ci hanno pure denunciato per averlo detto. Ah, però perché era ancora Presidente? Tieni presente, però voglio dire che non è che siccome è Presidente Padre Eterno, io non ho detto una parolaccia nei suoi confronti, ho detto è una persona che le cui decisioni non apprezzo, specialmente quando invece di mandare a votare i cittadini si fa stare con un governo non eletto, non scelto attraverso prima l'elezione e poi un Parlamento regolarmente eletto. Non mi pare di aver detto chissà che cosa. Quando dico che se la Costituzione dice che un dovere civico votare e colui che è il garante della Costituzione dice non c'è andato a votare, a me pare che di una persona che non faccia le cose come si deve. Vabbè, insomma, e abbiamo sistemato. Questo non c'è vilipendio, questo è il diritto di parola che aspetta anche un povero Cristo che deve andare stamattina a lavorare in campagna. In campagna, sì. Ma cosa fa in campagna Di Pietro? Ma che stagione è questa? Buona per che cosa? Questa è una stagione molto importante perché se vuoi raccogliere deve non solo seminare, ma poi deve coltivare come si deve, mettere a posto il terreno e quant'altro. Adesso sai, comincia, come si dice, l'uva comincia a crescere e quindi non diciamo le pampane. Comincia le foglie e quant'altro, bisogna mettere in ordine. Sotto il terreno cresce tanta erba, ma l'erbaccia bisogna toglierle. Siccome tu vuoi, se vuoi fare il prodotto fatto bene, non ci deve buttare le medicine, deve andare lì a guardare, deve andare a sistemare. Lì, tutte le attrezzi, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, io non lo so come è entrata questa cosa della legalizzazione anche nella questione di Roma, insomma. Tra l'altro, ma avete sentito che Giorgia Meloni, beh, questo sarebbe lo spettacolo degli spettacoli. Giorgia Meloni, ci sono delle voci che lei ha subito spedito al mittente, che si possa addirittura ritirare. Beh, sarebbe clamoroso, sarebbe veramente. Giorgia Meloni, no, è una ragazza contro cavoli, i controcavoli, non si ritira. A proposito di stavo dicendo una cosa importante sulla cannabis, io voglio dire, poi ognuno la pensa come gli pare, ma quando io voi sapete che io voglio dire, a me fa piacere che esiste il Movimento 5 Stelle, perché comunque contribuisce a un ricambio generazionale della classe politica e comunque ha indirizzato verso le urne la rabbia che altrimenti andava a sfasciare le vetrine. Detto questo, però, ho sentito prima che chi parlava per conto del Movimento 5 Stelle diceva, poiché ci sono tanti spacciatori, per combatterla dobbiamo regolamentarla. Voglio dire, siccome la droga lo danno coloro che poi si arricchiscono, sai che facciamo? Lo legalizziamo, così a questo punto ci guadagna lo Stato. Ma cioè è una cosa che non ha né capo né coda. Ho capito, la però... droga fa male, pure la sigaretta, considera la cannabis. Legalizzare la droga vuol dire legalizzare non solo lo spaccio, ma legalizzare quelle conseguenze, cioè le malattie. Quindi Di Pietro è contro la legalizzazione, non l'avrei detto, Io, perché dovrei essere a favore della legalizzazione? Ma che ne so, perché ci sono molte persone che sono a favore della legalizzazione. Vabbè, ma io rispetto tutti, però torno a ripetere, a mio avviso, ogni volta che siccome c'è un problema non riesco a risolverlo, lo legalizzo, e allora un giorno di tanti omicidi. Ma no, ma è una questione molto dibattuta anche a livello internazionale, cioè visto che per esempio si stronca molto il narcotraffico, che è una delle fonti di finanziamento della mafia. Per amore di Dio, invece di coltivare melanzane coltiviamo cannabis. Sarebbe male. Guardi, ecco, la cannabis in che stagione si dovrebbe secondo lei piantare? Grazie a Dio io non posso sapere come si perché lì in Molise c'è tanto sole, secondo me cresce su bene. Cresce su bene, quelli crescono bene ma muoiono prima. Ma non lo so, allora Di Pietro, questa è la domanda che devo fare a questo punto. Ma una cannettina mai in vita sua? Mai no, capitato? Senza se e senza ma. No, Di Pietro vota no al referendum e quindi canna no. Oggi si è svegliato, dirà no a qualsiasi cosa, no! Perché a qualsiasi cosa sì, no, un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia intera fa male. La canna mai una canna. La canna no, le canne noi le usiamo soltanto per usare come... Diciamo a pesca. Così. A pesca, per andare a pesca. Niente, manco. Senti, che dicono i giornali stamattina? Diciamo a quelle persone che va bene, allora faccio la rassegna stampa per Antonio Di Pietro. Allora, la rassegna stampa per Antonio Di Pietro. E niente, aprono tutti sul comitati per il sì. Renzi ovviamente, siccome è un referendum c'è metà spazio per uno e metà spazio per un altro. Non esageriamo, c'è anche la vignetta di Giannelli oggi, mica male, in prima pagina del Corriere della Sera è questa: in 70 anni di Repubblica 63 presidenti del Consiglio, è l'unico che ha fatto qualcosa, Renzi. E chi lo ha detto? Renzi. Lo supponevo. Il problema non è quel che ha fatto. Perché che ha fatto? Io, per l'amore di Dio, pensavo che un abile venditore fosse Berlusconi. Adesso ho scoperto che c'è uno che vende meglio fumo. Non la cannabis, però. Peggio. No, vende meglio. Cioè Renzi è peggio di Berlusconi. Renzi è peggio. No, non ho detto che è peggio di Berlusconi. Vende più fumo. Sto dicendo che E io vorrei tanto che una persona mi dicesse: ieri ho fatto questo. Se voi sentite ogni volta che parla, dice domani farò. La Madonna, ma dimmi che hai fatto qualcosa. Anzi, per far vedere che fa qualcosa ogni giorno, va a fare un'inaugurazione. Io ho visto un mesetto fa, inaugurava una galleria Reggio Calabria. Mi ricordo che l'avevo inaugurato io 70 anni fa. Ah, quella, sì, c'è questo mistero. Questo che dicono che ha inaugurato una opera inaugurata già in passato. Cioè, no, cos'è sta cosa? L'avevi inaugurata? Sì, quella... Ma non una volta, più volte. Ma quella lì perché era ministro, quando era ministro dei trasporti? Sì. Cioè, l'avevi inaugurata lei? La stavano facendo, io non ci sono andato neanche, perché voglio dire, è normale che un pezzo di strada dopo 40 anni si inaugura, ma farla passare che l'ho appena fatta, mi pare che invece è stata già inaugurata. Vabbè. Intanto reduce dalla festa per il trionfo del Leicester è Alessandro Giglioli dell'Espresso. Mannaggia a te, un caro saluto anche ad Alessandro, buon lavoro, ciao, come va Leicester? Fai tu un esame, perché Di Pietro si è rifiutato di pronunciare Leicester. Tu come lo pronunci? Guarda, io avevo imparato da ragazzo che stavo a Londra e c'era Leicester Square. Io pronuncio senza la parola square, avevo imparato quella roba lì, cerco di cavarmela così. Insomma, è la notizia del giorno, mentre Di Pietro si lamenta perché dice che non c'è abbastanza spazio per il no, lo dico così, al referendum. Vabbè, ma ieri Renzi è partito con i comitati, ci sarà più spazio per il sì e poi ci sarà spazio anche per il no. Il giorno dopo, domani. Ci penserà l'Espresso domani. Io credo che la cosa migliore è far capire di che cosa parliamo. Da qui a ottobre, però attenzione che non sta prendendo una bellissima piega sto referendum. Parte male. Dal punto di vista del ciò di cui parliamo, perché è partito con due narrazioni. La prima è: se perdo mi dimetto, quindi sì. Questa rimarrà fino all'ultimo giorno. E questo è, se posso, è un po' un ricattino, diciamo, perché forse uno potrebbe voler decidere. Cioè, forse la Costituzione è più importante del Premier pro tempore, chiunque gli sia. Di conseguenza, forse è più rilevante decidere sulla Costituzione, uno vorrebbe decidere su quella, sui contenuti di quella. La seconda roba che ho visto in giro, che un pochino mi ha fatto, in termini proprio di persona che si occupa di media, un pochino mi ha inquietato, è questa roba dell'Italia del sì contro l'Italia del no. Perché anche qua... non è che sia l'Italia del sì quella che vuole tutto il bello e il nuovo contro l'Italia che vuole tutto il cattivo. Forse c'è una proposta di modifica della Costituzione, molto banalmente dovremmo capire se è migliorativa o se è peggiorativa. Infatti io voglio sperare che da qui a ottobre ci si concentri anche un po' su quelli che sono gli argomenti. Scusa se posso. No, solo. Prevalentemente, solo. Sì, o almeno prevalentemente, perché altrimenti arriviamo a decidere... non so, per esempio, pensa alla sciocchezza epocale che ha fatto non solo Brunetta, ma anche Brunetta sulle trivelle, a dire bisogna votare sì per mandare Renzi a casa. E così non abbiamo votato. È sbagliato. Ma infatti, però c'è l'esatto e contrario dilemma che io ho posto qualche giorno fa: è dire, mettiamo il caso che a me piaccia la riforma, però non mi è simpatico Renzi. No, in questo caso, che voto? Secondo me, devi votare sì. Ma infatti, perché la Costituzione prevale. In teoria sì, ma stanno personalizzando troppo. Di Pietro, che succede? Se a me piacesse questa riforma e non mi piacesse Renzi, che devo fare? Deve prevalere il voto per la riforma? Ci mancherebbe altro. Certo che è così. Il problema di fondo è proprio questo, che oggi come oggi le istituzioni e l'informazione dovrebbero cominciare a fare una scheda al giorno per dire: è stato modificato questo, i pro e i contro, valuti lei, signore elettore. Grazie Di Pietro, mi ha lanciato il blog, che l'ho fatta ieri sul blog. Ecco, sul blog, Piovonorane. Piovonorane. Così neutrale, perché io dico... lui è un po' schierato, però... L'ho fatta sui contenuti, no? Su Renzi, di Carenzi. Perché è una cosa che non ha né capo né coda, andare a votare così al buio, un sì o un no, senza rendersi conto che la Costituzione è qualcosa che resta, vale e dovrebbe servire come punto di riferimento per ogni cosa. Ma questo torno a ripetere. La Io personalmente andrò a votare no, perché per quel po' che ho letto delle riforme, così come sono state prospettate, non sono riforme a mio avviso peggiorative della Va bene, e questa è una, è uno che si è fatto una insomma, studiata, ha fatto, se si fa una posizione legittima e voterà. Devo andare al traffico, poi devo chiedere anche al magistrato Di Pietro, c'è questa vicenda della Cassazione che stabilisce questo: rubare per fame non è reato. Un povero Cristo che ha rubato 4,07 euro di formaggio e Wurster, recidivo peraltro, recidivo, la Cassazione ha detto non è reato. Milan, mandami il traffico, mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. Milan, il primo maggio dovrebbe essere la festa dei lavoratori, mica dei casciabal. I giornalisti, prezzolati, casciabal, uè Milan! Renzi, ieri da Giletti, sembrava uno dei Blues Brothers, gli mancavano solo gli occhiali scuri, poi era tutto lui. Tutti a Tokyo a fare figure di merda! Grande Milan! Finalmente l'hai detto! Non manca il lavoro, manca la voglia, sei un grande, finalmente qualcuno che lo dice! Love you, ciao! Non c'hanno voglia di fa niente, fatica. Mia nipote si deve ancora laureare, deve laureare a luglio e già lavora, ha trovato 3 lavori. Alessandro, anche qui in tangenziale, nord di Milano, Dubai, ma Dubai così. No, non male questa, non male. Non voglio riaprire la questione, ieri non c'eravate, ho detto che basta, cioè non si può la ragionare per steccati o è tutto bianco e tutto nero, ma ho detto basta, cioè non c'è lavoro, c'è la grave disoccupazione, ma ci sono anche tantissime persone, ragazzi, che prima di approcciarsi a un qualsiasi lavoro dicono sì, ma il weekend devo lavorare, ma le ferie sono pagate, ma in agosto posso andare via 1 mese e mezzo dalla nonna, dallo zio, non c'hanno voglia di lavorare, molti non hanno voglia di lavorare, è innegabile. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ricoperto di insulti per questo, ma anche tutti quelli che mi hanno scritto dicendo guarda, è vero, io sono, non so, c'ho una pizzeria, non trovo nessuno che voglia venire a lavorare il weekend, insomma tutta una serie di robe così, ma non voglio riaprire il discorso. Caro, no, perché non c'è tempo. Eravamo qui in casa a sentirti, io sì. Moglie, beh, è stata la discussione subito dopo. Mi volevi prendere a testate. No, d'estate no. ma schiaffettini. Piccole ferite. Ma no, dai, perché abbiamo 4 minuti, non ce la faccio. Poi, se vogliamo, ti reinvito una volta e riapriamo la discussione. Dai, volentieri. Allora, però, Di Pietro, succede che la Cassazione, già che la Cassazione si debba occupare di un furto di 4,07 euro, cioè, ma Cassazione vuol dire quanto, per arrivare in Cassazione, Di Pietro, quanto è andata avanti questa vicenda? Sicuramente anni. Ma la Cassazione non si occupa né di furti né di omicidi, si occupa dell'applicazione del diritto. Sì. Cioè, se chi, prima del tribunale o la corte d'appello, nell'applicare alla fattispecie concreta, no, quella norma di legge ha spiegato meno. Detto questo, mi pare che la Cassazione abbia detto una cosa di buon senso, perché poi innanzitutto è buon senso il diritto. Sì. E cosa dici? Dice a un certo punto, certo che non si può rubare, certo che se c'è uno che sta morendo di fame e prende un salsicciotto da un bancale, bisogna capire lo stato di necessità e di primaria importanza in quel momento, ma anche il dolo, perché per il furto è fatto da un fatto materiale, da una volontà di rubare. Sì, la volontà era rubare e di non morire, mangiare. Ci ha fatto venire in mente De André, per cui bisogna anche avere il senso delle proporzioni tra la vita e la morte. Te la ricordi, Giglioli, questa di De André? Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. La mia ora di libertà, giusto? Sì, no, ma hai sbagliato il brano. Poi il collega ha sbagliato il brano. Perché il brano che tu volevi citare, che era quello che avevo in mente io, era: ci hanno insegnato la meraviglia per. Sì.